Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Non son degno di te, ma ti invito perché tu sei Deborah, la regina di due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, qua ci dobbiamo mettere d'accordo. La Cassazione entra sempre di più all'interno delle nostre case, soprattutto scoppia le coppie. Anzi, no, vorrebbe riaccoppiare le coppie che vogliono scoppiarsi per avere dei vantaggi fiscali. Allora, c'è questa, sembra di cogliere quasi questa deriva, hai ragione Deborah, perché abbiamo riferito proprio lunedì di questa ordinanza di Cassazione che dice la famiglia, il fisco non separi ciò che la famiglia vuole unire, quindi le coppie devono vivere sotto lo stesso tetto se vogliono avere la esenzione. E adesso c'è un'altra decisione della Cassazione, la sentenza 21.614, che accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate dice a due coniugi: cari miei, voi avete preso due appartamenti che erano divisi, avete detto che poi li avreste uniti. Esatto. Non li avete uniti. E anche se non diventa una casa di lusso, voi non avete diritto a godere dei benefici per l'acquisto della prima casa. E ha dato così ragione all'Agenzia delle Entrate. Quindi non bisogna dire poi uniremo gli appartamenti, perché poi bisogna farlo, perché il fisco ti guarda e la Cassazione ti colpisce. Allora, siccome non c'è due senza tre, chissà domani quale altra famiglia verrà toccata dalla Cassazione rispetto a quale altra situazione di investimento immobiliare, perché mi pare che sia il tema casa quello un po' più caldo al centro dell'attenzione della Suprema Corte. Ma sai, adesso poi con queste modalità di lavoro un po' diverse, sai che c'è ulteriormente l'incentivo anche nel nuovo DPCM per lo smart working, quindi insomma l'utilizzo della casa. Poi noi diciamo smart working, sappiamo tutti che parliamo molto di lavoro da casa e poco di smart, diciamo poco di furbo, di lavoro agile. Ecco che allora la casa entra sempre più nei nostri pensieri e tutti abbiamo già di mira le varie imposte connesse, della tassa rifiuti abbiamo parlato, parleremo poi presto anche dell'IMU, insomma c'è sempre qualche cosa da pagare. Prenditi una pausa intanto, oggi che è mercoledì parliamo di lavoro, che è meglio. Abbiamo l'appuntamento settimanale con INAPP e oggi parleremo di un tema peraltro molto delicato, perché proprio questa settimana è balzata la ribalta della cronaca di questa sgradevole situazione, più che sgradevole dire proprio quasi vergognosa, che si è consumata appunto a Milano per i lavoratori di Uber Eats. È stata scoperta questa banda che avrebbe proprio messo in atto una squadra di caporalato, perché così proprio è stata definita anche sui giornali, insomma questi lavoratori che come sapete ci consegnano il cibo grazie alle prenotazioni che possiamo fare su determinate, su questa piattaforma in particolar modo. Poi si era scoperto che venivano reclutate in modalità, questi lavoratori proprio vergognose, perché non mi viene un altro termine, retribuiti in maniera da definire nello stesso modo, sì, ai limiti della schiavitù, esatto, diciamo. Esattamente. E quindi insomma questo ci richiama l'attenzione proprio sul tema di tutti quei lavoratori che noi possiamo attivare utilizzando queste piattaforme. Ho fatto tutto questo panegirico, Mauro, per effettivamente anticipare questo campo di ricerca di INAPP. Esattamente, perché l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche quest'oggi ci guida nella esplorazione del pianeta dei lavoratori delle piattaforme o con le piattaforme. Quindi parliamo certo dei ciclofattorini, o se volete il termine inglese rider, ma parliamo anche dei data analyst, cioè coloro che analizzano dati, coloro che lavorano solo e soltanto con le piattaforme digitali. Non so, pensate ad esempio ai miners, a coloro che estraggono le valute virtuali. Ma poi apprezzo particolarmente la tua citazione di Uber Eats, non solo perché per dovere civico dobbiamo segnalare questo tipo di deviazioni, ma anche perché tiene insieme le due cose di cui parleremo oggi, perché parliamo di cucina, quindi Uber Eats, e parliamo di lavoro con INAPP. Non so se la cosa era voluta, ma scopriranno presto i nostri ascoltatori perché. Allora sì, ma dobbiamo andare calmi col giornale radio del risparmio, perché vedo che abbiamo un collegamento telefonico ancora un pochino problematico, quindi lentamente andiamo verso il nostro approfondimento di oggi, partendo come sempre con il nostro giornale radio del risparmio. Amore, i soldi. Attenzione, vince i 5 miliardi della lotteria di Capodanno il biglietto serie Z numero 01717. Lo ripeto, biglietto serie Z numero 01717. Quale casa starà festeggiando? Ho vinto! Quale città? Allora, abbiamo di nuovo riutilizzato il simpatico Paolo Villaggio con Ho vinto la lotteria di Capodanno per fare un punto della situazione sulla famosa lotteria degli scontrini. Sì, allora, il garante della privacy ha detto sì. Quindi l'uomo della privacy ha detto che va bene, si può fare, il provvedimento validato dal garante integra il regolamento lo scorso 6 marzo, insomma tutti i ricchi premi per i consumatori maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici e premi mirati anche per gli esercenti che emettono lo scontrino. Perché nel senso che saranno sorteggiati, non nel senso che sono pochi gli esercenti che mettono scontrino, lungi da me. Tutto questo segnatevelo, se avete già l'agenda per il 2021 potete già scriverlo. Prima estrazione della lotteria degli scontrini 14 gennaio 2021 e si baserà sui corrispettivi, sugli scontrini trasmessi e registrati dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021. Bene. Quindi fiato alle carte, mi verrebbe da dire, parafrasando il grande Mike Buongiorno. Andiamo al primo tema di oggi. Parliamo di lavoro. Il denaro entra ed esce. La liquidità è come l'acqua nel lavandino. Quando è uscita, non ritorna. Impara a regolare le priorità. Dipendenti, fornitori, utenze. A ciascuno il suo turno. Cerca di capire quando arrivano i momenti buoni e accumula per quelli di carestia. Allora, caro Mauro, questa è la frase, anzi la regola del successo di pagina 124 di questo libro che io ho scelto per introdurre il nostro ospite di oggi, del quale siamo veramente molto contenti di essere riusciti ad acchiappare in pieno tour italiano per promuovere il suo libro, ma noi non l'abbiamo invitato perché ci raccontasse solo del suo libro, ma soprattutto perché ci racconti delle sue regole del successo e per chi opera in un campo che in questo momento è in grandissima difficoltà, come lui appunto, ovviamente le sue regole sono particolarmente preziose, insomma le sue indicazioni su come affrontare anche un momento critico come questo. Lo vuoi presentare tu? Ma certamente, diamo il benvenuto a Due di Denari a Gio Bastianich, che tutti conoscete, imprenditore, personaggio televisivo, musicista italoamericano, ristoratore di tra quelli mondialmente, globalmente di maggiore successo. Noi diciamo sempre abbiamo esperti di valore mondiale e vedete sì, che non veniamo meno a questa tradizione. Benvenuto Bastianich a Due di Denari. Buongiorno Gio, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, in tour oggi in tappa a Roma, se non ricordo male, per presentare le regole del successo, le regole del metodo Bastianich. Io ho dato un'occhiata al libro Gio ieri e appunto posso raccontare agli ascoltatori che queste regole del successo di Gio Bastianich sono in realtà le regole del papà di Gio Bastianich, che da immigrato dall'Istria appunto nel Queens negli Stati Uniti, quando iniziò la sua avventura americana aprendo il primo ristorante, aveva le idee molto chiare su come portare avanti questa attività d'impresa. Le regole di quel periodo sono le regole che valgono anche adesso e soprattutto, Gio, quali sono? Pronto? Bene, sono sì, un po' sono un po' regole, ma anche sono narrative, raccordi di altri tempi. Il senso del libro è che quello, le sue regole, che sembravano assurdo nei tempi quando ero piccolo, in qualche maniera mi hanno aiutato nella vita, perché nella loro semplicità sono diventati sempre più centrale per me. E cerco di raccontare anche delle cose super semplici, valori di persone che hanno lavorato, immigrato, visto fame, guerra, posso essere applicati anche in questo mondo moderno per aiutare delle persone. Quali sono quelle a cui sei più affezionato, se possiamo dire così, insomma, quelle che ancora ti porti avanti anche nella tua attività attuale di imprenditore? Beh, sì, sono le regole sono un po' comiche, non nel suo senso, se li leggi un po'. Ma tipo, no, secondo me sono di buon senso, che magari per qualcuno possono apparire anche ovvie, ma non tutti quelli che allora, si... Leggi le regole preferite tue. Sì, è quella che ti dicevo prima, quella di aspetta. No, ma non era una... Beh, già che il denaro entra ed esce come l'acqua, esatto, nel lavandino. E quando è uscita non ritorna, e soprattutto cerca di capire quando arrivano i momenti buoni, accumula per quelli di carestia. Perché noi in questa crisi, Gio, abbiamo proprio osservato che tante persone erano totalmente impreparate ad affrontare 2 mesi senza portare avanti la propria attività, e quindi questo accumulo per la carestia in circolazione non ce n'era molto. Quindi questa è una regola che a noi è piaciuta molto, per esempio. In realtà questo libro è scritto pre-Covid, allora neanche non ha l'intenzione di affrontare Covid, ma in qualche maniera si può anche applicare queste regole e queste saggezze anche in questo periodo molto difficile. Ovviamente il Covid a livello globale un po' magnifica i problemi che già esistevano e fa accelerare tutte le cose, i movimenti normalmente che affrontiamo nel mondo di business. Allora sì, non si discute direttamente Covid in nessun senso, sono regole più che uno può applicare nella sua attività. E poi non è un libro che ti dice sicuramente come guadagnare 50% in più. Il senso non è quello, il senso è buon senso in affari, che può essere valido per un ristorante come per qualsiasi impresa o per qualsiasi imprenditore. È il buon senso che eventualmente, se usato in una maniera intelligente, ti porta a margine. Gio Bastianic, posso dirle la mia regola preferita di quelle che enuncia, perché è curiosa. Quale? Ed è: venera la guardarobiera. Ce la spiega, perché secondo me ha tutto dietro, tutto un approccio che è molto interessante. Io la colgo come curati dei dettagli, anche di quelli che possono sembrarti più lontani dalla tua attività, da quello che chiameremo il core business. In realtà la guardarobiera è un po' un'istituzione in America. Non avete qui la stessa cultura di guardarobiera, ma in America è una posizione molto importante. È la persona che guadagna più e fa di meno nel locale. Allora la posizione è una posizione data a qualcuno che o vuol dire qualcosa al proprietario o magari ha un potere. E qui si va a espandere a capire che come si accumula informazioni con la tua azienda, di avere sempre le orecchie aperte, ascoltare cosa ti dicono gli altri, di accumulare sempre informazioni che possono essere utili, e non sai mai dove ti arrivano le informazioni che sono più importanti nella tua azienda. Il discorso è un po' quello, ma è un po' difficile tradurre perché non avete questa figura della guardarobiera come avevo in America. E un'altra regola importante è: la cosa più importante nella gestione dei dipendenti è dare loro una prospettiva di carriera, altrimenti se ne andranno. Quindi un'attenzione al personale, alle loro attitudini, anche alle loro aspirazioni è importante. Gio, noi fra un po' dobbiamo chiudere questo collegamento, ma un commento sull'attualità volevamo sentirlo da parte tua, perché in questo momento, come dicevamo, la ristorazione e l'intrattenimento un po' in generale sono tutte attività profondamente mortificate dalla crisi. Cosa possiamo dire agli imprenditori del settore che si sentono in un tunnel senza uscita? Beh, sicuramente io credo che dopo di questo, come tante crisi, sarà un periodo di grandissima opportunità. Allora preparati per ripartire, tutto sarà di rivalutare, rifare, ripensare, momento di lì, ma il ristorantore è un grande imprenditore geneticamente. E secondo me, se sei pronto per affrontare il futuro, perché il futuro, quando capiamo cosa sarà, sarà pieno di opportunità, magari puoi trasformare quello che fai in una cosa che funziona benissimo o meglio nel futuro, magari puoi rifare qualcosa per affrontare questo futuro. Comunque sono tutti soggetti che il metodo bastianich.com è un sito dove abbiamo un community dove andiamo a discutere tutte queste cose in profondità, anche mettiamo contenuti. Allora, se vi interessa questo discorso, metodobastianich.com. Assolutamente, poi c'è anche il libro che adesso noi favoriamo naturalmente ai nostri follower su Facebook. Lo stiamo facendo vedere, lo stiamo mostrando, Gio. Sì. Allora, grazie a Gio Bastianich. Bene, grazie per le ottime domande e la bella intervista. Sono molto, molto contento di avere parlato bene. Con voi. Noi ti aspettiamo però qui a Milano, perché anche se, come dire, la radio si fa un po' più fatica a farla con gli ospiti fisici nei nostri studi, noi, come dire, un po' come i ristoratori che dovranno convertirsi, anche noi prima o poi speriamo di non doverci definitivamente convertire all'intervista telefonica, ma di riportare i nostri ospiti qua in studio. Grazie a tutti, adesso passiamo. Non vedo l'ora. Grazie per l'invito. A presto. E passiamo allora alla seconda parte della nostra trasmissione, in cui parleremo di piattaforme digitali, quindi dai piatti alle piattaforme. Sigla. Parliamo di lavoro con Inap. Deborah scuote la testa perché dice: ma ti sembra il modo di presentare due serissimi ricercatori dell'Istituto Nazionale? Assumiti le tue responsabilità. Per l'analisi delle politiche pubbliche. Ebbene sì, ho fatto un passaggio coraggioso, ma spero che non me ne abbiano né il dottor Massimo De Minicis, ricercatore INAP, componente del gruppo di lavoro Innovazione Tecnologica, Relazioni Industriali e Mercato del Lavoro. Buongiorno dottor De Minicis, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie del collegamento, buongiorno. E né il dottor Manuel Marocco, ricercatore INAP della struttura Lavoro e Professioni, ed è il responsabile del gruppo di lavoro di cui vi ho già detto per il dottor De Minicis, appunto il gruppo di lavoro Innovazione Tecnologica, Relazioni Industriali e Mercato del Lavoro. Buongiorno, benvenuto anche a lei, dottor Marocco. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, Deborah, ti spiego. Permettimi, no, ma c'è... Noi, INAP già da anni conduce questa indagine ed è sostanzialmente quella di cui andiamo a parlare oggi, la prima indagine pubblica sul mondo dei lavoratori delle piattaforme. Ora tu ti chiederai come è un vero e proprio mondo, io, esatto. Ma che roba è? No. Sono quelli che lavorano con, grazie a, tramite le piattaforme digitali. Quindi andiamo da coloro che consegnano il cibo, per esempio, i cosiddetti ciclofattorini o rider, per arrivare via tra via. L'altro, guarda, ci sono degli ascoltatori che apprezzano molto la traduzione immediata che hai fatto del termine rider, chiamandolo fattorino, perché almeno ciclofattorino è il termine anche di quelli proprio utilizzati dalla normativa. E INAP ha un'analisi molto puntuale: quanti sono questi lavoratori delle piattaforme e quali sono le loro tutele, quali sono i possibili sviluppi. Cominciamo magari dai numeri, se sei d'accordo, ma se non sei d'accordo facciamo così ugualmente, perché oggi sono molto imperativo. Dottor De Minicis, quanti sono questi lavoratori delle piattaforme digitali? Allora, i lavoratori che prestano attività lavorative, sia di carattere fisico che intellettuale, entrambe le azioni, tramite piattaforme digitali sono lo 0,5% della popolazione italiana compresa tra i 18 e i 74 anni. Stiamo parlando quindi in numeri assoluti di circa 213.000 individui, di cui il 54% sono uomini e circa un 45% sono donne. Devo dire che noi in questa indagine Plus consideriamo anche altre tipologie di attività che traggono profitto dalle piattaforme, che sono la vendita di prodotti o l'affitto di, ad esempio, di appartamenti. E complessivamente gli italiani che utilizzano le piattaforme per guadagnare sono circa 2.600.000. Di questi 213.000 prestano attività lavorative tramite piattaforma. Attività lavorativa che può essere svolta esclusivamente online, oppure, come dire, la piattaforma online serve per la prenotazione di funzioni e servizi, quindi anche da questo punto di vista forse proprio, come dire, l'attività va ben spiegata, dottor sì, De Minicis. Esattamente, diciamo che gli studi, la letteratura scientifica su questo tipo di lavoro, di attività lavorative, divide queste prestazioni in due ambiti: quelle, come diceva giustamente lei, svolte interamente online, quindi l'attività viene ottenuta, il compito lavorativo viene ottenuto online nella rete virtuale, ma anche l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento del compito è completamente online. Queste attività possono essere attività che richiedono non alte competenze o invece attività che richiedono alte competenze. Per quanto riguarda le attività completamente online che non richiedono elevate competenze, parliamo di compiti lavorativi come il riconoscimento di immagini, il commento, la descrizione di annunci pubblicitari, l'individuazione, la partecipazione a sondaggi che possono essere sondaggi di mercati, di mercato d'opinione, la distinzione in questo caso anche di immagini o fotografie. Quelle invece attività svolte completamente nel mondo virtuale che richiedono invece maggiori competenze, devo dire che le piattaforme realizzano già un test di selezione, di preselezione all'ingresso per ottenere questi compiti, sono attività anche complesse come la realizzazione di software, la realizzazione di algoritmi o la partecipazione anche ad attività finanziarie. Per citare alcune piattaforme completamente online possiamo citare Amazon Mechanical Turk, che è la piattaforma di lavoro di Amazon, si accede con l'account di Prime perché è esperto, diciamo, di Amazon. Per quanto riguarda più direttamente il mercato italiano, Me la scrivi, Neobooks e ClickSense, queste sono le piattaforme completamente online. Poi esistono un'altra tipologia di lavoro su piattaforma che in letteratura è chiamato lavoro a domanda tramite app, per cui l'organizzazione e il coordinamento è realizzato nel mondo virtuale, anche l'ottenimento dell'attività, però l'attività viene svolta in presenza, cioè nel mondo reale. Questo tipo di attività sono come quelle che dicevate, nominavate inizialmente voi, cioè il food delivery, quindi il trasporto di merci o cibo, quindi realizzato dai cosiddetti, dai famosi rider ciclofattorini, o il trasporto di individui, Uber ad esempio, che in Italia ha una normativa abbastanza limitata, speciale, o anche attività di carattere domiciliare o di cura della famiglia. Ci dobbiamo fermare per un attimo, dottor De Minici, se tra l'altro Mauro, se sei d'accordo, poi partirei dal tema dell'età, perché secondo me nell'immaginario collettivo ancora chi lavora in questo ambito è una fascia sociale estremamente giovane, e invece anche dal punto di vista anagrafico le cose non stanno esattamente così. Infatti è proprio così, perché INAP, io ho avuto qualche anteprima, ha fatto delle scoperte interessanti con questa indagine, sia dal punto di vista numerico che normativo. Ma adesso, cara Debora, le borse. Allora, avete messo anche qualche sito di qualche piattaforma sulla quale è possibile investire per diventare ricchi? No. Uno, due, tre. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Di denari. Buongiorno a tutti. Comunque, non solo i cicloriders sono sottopagati e sfruttati, ma tutto il mondo dei trasporti. Andate un po' a vedere i corrieri, i furgonari, eccetera. Andate a vedere. Ciao, ne? Michele da Torino. Quello dei trasporti, peraltro, è un tema che abbiamo anche affrontato nel corso della nostra trasmissione. È un ambito che per la verità ricerca molte professionalità, e poi appunto ci si scontra effettivamente con la percezione diffusa che c'è di un lavoro duro, perché lo è, e non particolarmente ben pagato. E ci ritorneremo, Mauro. Per certo. Quello che riguarda invece il tema di oggi, è un problema anche che riguarda appunto questi lavoratori con le piattaforme o delle piattaforme. Guarda, chiamo in causa subito il dottor Manuel Marocco, che per chiedergli: questi lavoratori delle piattaforme, quindi abbiamo detto sono in realtà un mondo molto composito, molto vario, hanno tutele, tutele contrattuali, hanno sufficienti tutele normative, dottor Marocco? Sì, dunque l'Italia con il cosiddetto decreto rider è uno dei pochi paesi al mondo in realtà ad avere una legislazione specifica. È una legislazione settoriale perché riguarda appunto solo i ciclofattorini. Come dicevo, sono pochi paesi. Una legge generale è stata approvata in Francia, un'altra legge settoriale è presente in Portogallo e riguarda il trasporto invece dei passeggeri, mentre la maggioranza dei paesi non ha approvato una specifica legge. La legge italiana affronta tre questioni fondamentali che, come spiegherà anche meglio di me il collega Massimo De Minicis, affronta tre questioni fondamentali, alcune delle quali emergono anche dalle nostre evidenze empiriche. Innanzitutto sanziona l'assenza di una forma scritta del contratto e obbliga le piattaforme a fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili alla tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. Questa norma ci sembra importante proprio perché una delle caratteristiche che rilevano la nostra indagine è che in realtà c'è molta informalità. Un'altra questione molto importante affrontata è quella della sicurezza, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La legge stabilisce che comunque i rider sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Anche questo quindi è una disposizione molto importante. Tenete presente, appunto, come tutti sanno, che proprio questa legislazione in periodo di questa normativa, in periodo di pandemia, ha avuto un primo positivo test, perché in alcuni casi alcune piattaforme rifiutavano di fornire ai rider idonei dispositivi di protezione individuale e quindi abbiamo avuto delle sentenze che, richiamando anche la nuova normativa, hanno imposto questo obbligo alle piattaforme. Quindi è importante affermare che la salute e sicurezza è una tutela universalistica che quindi prescinde dalla natura subordinata autonoma del rapporto di lavoro. Un'altra questione importante, e questo emerge anche dai nostri dati, ma anche credo dalla chiamata che prima abbiamo sentito tutti, è la questione dei compensi. I nostri dati appunto evidenziano, come ci dirà Massimo, una evidente fragilità economica. È importante, la legge affronta il tema dei compensi e affida da questo punto di vista un importante ruolo anche alla contrattazione collettiva, alle parti sociali, e quindi comunque il tema, quello del compenso, è un tema assai rilevante. È delicato, naturalmente. È delicato, infatti. Certo, certo. A proposito invece dell'aspetto che sollevavamo prima, Massimo De Minicis, se torno a lei, che questo ambito appartiene a quel mondo che noi abbiamo imparato a riconoscere come la cosiddetta gig economy, l'economia dei lavoretti, e quindi spesso nell'immaginario collettivo ci scontriamo insomma con la convinzione che ancora il ciclo fattorino sia lo studente universitario che si paga facendo questo lavoretto l'università. In realtà, a ben analizzare le fasce anagrafiche, appunto, voi avete riscontrato ben altro, e quindi questo mercato è praticato e frequentato anche da lavoratori di età un po' più alta, che magari hanno perso il lavoro, che non hanno altre alternative in questo momento e quindi si ritrovano, non dico a riciclarsi, ma a cimentarsi con un mondo che magari in un momento di mercato diverso, in un momento economico diverso, forse non avrebbero mai immaginato appunto di dover praticare effettivamente. Cosa ci dice l'età di questi lavoratori? Sì, esattamente così. Quando abbiamo visto i dati sulla situazione, sulla condizione anagrafica, siamo rimasti anche noi sorpresi, perché l'età dei 18-24 anni, quindi l'età all'interno di un percorso di iscrizione anche secondario, universitario, è solo la quarta classe di età tra quelle con più lavoratori presenti all'interno della classe, mentre le prime due classi di età sono, cioè con più lavoratori delle piattaforme, sono quella dei 25-29 anni con il 26% e il dato è molto simile per i 40, che è la seconda classe di età, con più lavoratori delle piattaforme presenti all'interno di questa fascia d'età, che è quella dei 40-49 anni. Il 25% dei lavoratori su piattaforma va dai 40 ai 49 anni, la terza classe d'età è dai 30 ai 39 anni e, come dicevo, solo la quarta classe d'età è quella dei 18-24 anni. Quindi questo ci dice che i lavoratori delle piattaforme sono soggetti adulti che spesso hanno concluso i percorsi di istruzione e di formazione, che hanno affrontato delle esperienze nel mercato del lavoro e che possono essere anche in uno stato di disoccupazione, appunto come diceva lei, o di inoccupazione, che non riescono a entrare nel mercato del lavoro e magari utilizzano le piattaforme per avere un elemento reddituale, un reddito da lavoro. Però Mauro, non vorrei limitare la nostra analisi ai ciclofattorini, perché noi quando parliamo di piattaforme digitali parliamo per esempio anche di Airbnb, e lì in realtà il circuito economico è ben altro. Certamente, ma poi guarda nell'indagine, ma chiediamo conferma anche al dottor Marocco, qui tiriamo dentro anche, che so, gli influencer, persino Chiara Ferragni, per quanto oramai probabilmente è più simile a una piccola impresa piuttosto che a un lavoratore delle piattaforme, dicevo persino gli influencer sono dei lavoratori delle piattaforme, quindi con i problemi che stiamo vedendo, titolo di studio relativamente alto e con anche però dei guadagni, una fragilità finanziaria. Credo che possiamo fare questa estensione, no, dottor Marocco? Sì, sì, sicuramente. Ecco, la nostra indagine, come spiegava all'inizio Massimo De Minicis, ha preso in considerazione tutto il settore. Tutto il settore di coloro che lavorano tramite piattaforme. Quindi ad esempio anche i dati che riguardano il titolo di studio confermano che si tratta di persone che hanno un titolo di studio complessivamente medio-alto, poi immagino il Massimo specificherà meglio questo dato. Comunque ecco, l'evidenza è che questo tipo di attività non coinvolge esclusivamente, non riguarda solo i rider. Sì, sì. Né che siano delle persone in qualche modo che si affidano a questi lavoretti perché non hanno altra possibilità. Spesso sono anche gente che si è inventata un nuovo lavoro, come facevamo il caso degli influencer. Però ora ci dobbiamo fermare un istante, vi chiedo un attimo di pazienza perché è il momento del traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Due di denari. Guarda Deborah, io vorrei lanciarmi in una sorta di sintesi teorica di quello che ci stanno dicendo i due ricercatori di INAP, cioè Manuel Marocco e Massimo De Minicis, che abbiamo in collegamento. Perché sei particolarmente bravo tu. No, sono ispirato, mi sento ispirato e quindi mi butto e poi naturalmente verrò bastonato giustamente dai due ricercatori, ma forse no. Allora, mi pare che questi lavoratori delle piattaforme siano un po' l'emergenza, la prima manifestazione, la più evidente manifestazione di un mercato del lavoro che sta completamente cambiando. Non sta cambiando da oggi, ma da tanti anni, da 20, forse 30 anni. Insomma, c'è questo inventarsi il lavoro, questo inventarsi delle figure anche professionali diverse, per cui le tradizionali figure del lavoro dipendente, lavoro autonomo, insomma, scricchiolano un po'. Chiedo allora conferma al dottor Marocco se questa mia impressione è corretta e si può organizzare una modalità di normativa, di approccio, di censimento, di gestione di questi lavori un pochino più efficace, perché insomma sì, abbiamo cominciato con i ciclofattorini, però poi dovremo fare, che so, i data analyst, poi gli influencer, poi insomma diciamo che così è un po' come svuotare il mare col cucchiaio. Forse bisognerebbe fare intanto un censimento molto molto completo di queste nuove professionalità, diamo loro appunto tutta la dignità anche che meritano. Dottor Marocco. Certo. Sì, in effetti si tratta di un dibattito, quello della cosiddetta fuga dal lavoro subordinato, di vecchia data, insomma. Anche la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro è da tempo che discute di questa questione, quindi quello delle piattaforme digitali probabilmente è quindi della crisi del lavoro subordinato come strumento per attribuire tutele è un tema, diciamo, è solo una parte di un tema che di cui i giuristi, le istituzioni discutono da molto tempo, insomma. Una delle questioni diciamo, che emergono però e che riguardano nello specifico i lavoratori delle piattaforme, quello è la difficoltà è proprio dell'invisibilità del lavoro. E quindi una delle questioni fondamentali in effetti è quello di registrare queste, proprio il lavoro. E quindi da questo punto di vista noi, insieme a un gruppo di ricerca, insomma, composto non solo da me, da Massimo, ma anche da altri colleghi dell'INAP, stiamo diciamo anche elaborando delle proposte da questo punto di vista. Una delle questioni fondamentali è appunto la registrazione di questo lavoro e questo, diciamo, la conoscenza è fondamentale, quindi una delle ipotesi è quello di realizzare un tracciamento che quindi consenta anche la costruzione di carriere lavorative che sono molto spezzate. Pensate alla tutela previdenziale, insomma, di questi soggetti. Quindi una delle esigenze, noi stiamo lavorando a ipotesi di app pubbliche che diciamo una sovrastruttura tecnologica che consenta il tracciamento e quindi anche la ricomposizione di queste carriere lavorative. Una volta così ricomposte anche la costruzione, innanzitutto si avrà conoscenza del fenomeno e quindi sarà possibile studiarlo, ma poi anche installare e costruire nuove tutele, nuovi diritti proprio sulla base di queste carriere ricostruite. Anche perché la pandemia sta dando un'accelerata talmente forte a certi cambiamenti che naturalmente bisogna non solo tenerli sotto stretta osservazione, ma cercare anche di non perdere il treno per disciplinarli in maniera corretta ed adeguata, proprio come anche questi, quelli che oggi noi chiamiamo nuovi lavori, ma che giustamente, Mauro, tu prima dicevi, in realtà sono, come dire, ormai talvolta, tra di noi da un ventennio almeno. Talvolta sono nuovi, talvolta invece sono modalità che la tecnologia ha fatto esplodere, ha fatto espandere in modo più consistente di quanto non fosse prima. Io vorrei chiudere, Deborah, su un argomento a noi caro, la fragilità economica, fragilità finanziaria, perché, e chiedo conferma al dottor De Minicis nell'ultimo minuto, ultimi due minuti che ci restano, secondo la vostra rilevazione la fragilità di questi lavoratori delle piattaforme, e ripeto, non parliamo solo dei ciclofattorini, ma di molte altre professioni che vengono svolte grazie al collegamento con piattaforme digitali, ripeto, la fragilità finanziaria sarebbe finanziaria e reddituale molto più alta di quella della media della popolazione italiana. Quali sono i riferimenti, dottor De Minicis? Sì, noi abbiamo chiesto, diciamo, a tutto il ai soggetti che abbiamo intervistato nell'indagine se sarebbero in grado di sostenere spese impreviste, come ad esempio una spesa medica imprevista, no? E per quanto riguarda il dato dei soggetti, dei lavoratori delle piattaforme che non sarebbe in grado di sostenere questa spesa imprevista, siamo intorno al 35% dei soggetti, appunto, che non sarebbe in grado, ad esempio, di sostenere improvvisamente una spesa medica. Questo dato è sostanzialmente più alto di quello del resto della popolazione italiana, di più di 10 punti, perché il resto della popolazione, dei soggetti della popolazione italiana che non sarebbe in grado di sostenere spese impreviste intorno al 22%, e questo è interessante, anche più alto sostanzialmente degli altri soggetti che utilizzano le piattaforme per ottenere reddito, per guadagnare, ma non prestando attività lavorative. Cioè Airbnb, per capirci, insomma. Airbnb, ma anche chi vende prodotti. Ah, certo. Quindi la fragilità economica dei lavoratori delle piattaforme è molto più alta anche rispetto agli altri, non solo rispetto al resto della popolazione italiana, ma anche rispetto ai soggetti che utilizzano, che guadagnano sulle piattaforme, però non prestando la loro attività, considerando anche che i soggetti che lavorano tramite piattaforma hanno dichiarato quasi per il 50% che quel reddito per loro è importante, è essenziale e non potrebbe farne a meno, quindi è una integrazione reddituale essenziale per sé e la propria famiglia. Allora, noi vi rimandiamo naturalmente come sempre al sito www.inap2p, mi raccomando, inap.org, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ringraziamo Manuel Marocco e Massimo De Minicis, ricercatori INAP, per questo sguardo in anteprima su una indagine che in realtà è un'indagine poi che viene condotta a livello europeo sui laboratori delle piattaforme e sulle trasformazioni in atto grazie alle piattaforme nel mondo del lavoro. Grazie molte e buon lavoro, dottor Marocco, dottor De Minicis. A voi. Buona giornata. Noi torniamo domani con il consueto appuntamento con Investire Informati. Avremo anche un'altra carinissima iniziativa di educazione finanziaria che vorremmo raccontarvi. Io intanto ti saluto, vado a leggere il libro di Gio Bastianich, Le regole del successo, così poi ti lascio qui da solo a due di denari. Io vado. Pensavo andassi ai fornelli con il libro di Gio Bastianich. No, non è un libro di ricette questo giro. Ma lui non ne ha mai scritti, per la verità. Ne ha scritti tanti sulla sua vita, Restaurant Man, Giuseppino. Vedi che è stata una giornata. Lui è un imprenditore, non fa lo chef. Qui c'è questo equivoco di fondo sul quale ti devo proprio chiarire le idee. È stata una giornata in cui abbiamo sfatato molti luoghi comuni e vedremo domani. A domani. Grazie. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.